Per quanto riguarda l'accerchiamento di stasera, è un'iniziativa pubblica e di massa che faremo, che comincerà intorno alle 18, recandoci praticamente adesso la zona dei cantieri, quella vera, non il fortino che hanno fatto loro, in cui si sono rinchiusi poliziotti, carabinieri, finanzieri ed alpini. Per noi è raggiungibile o attraverso un sentiero oppure proprio andando in un altro paese che si chiama Giaglione. E siccome però abbiamo fatto questo sentiero che porta lì, stasera un po' di gente già dalle 6 si reca in quell'altra postazione lì, in maniera che poi nell'orario concordato, e cioè intorno alle 10:30 di sera, ci si mette tutti vicino ai cancelli, le reti, insomma tutta quella che è la recinzione del loro fortino. L'assedio, cioè questo è un accerchiamento notturno, quindi diciamo molto coreografico, perché avremo le pile, non useremo le torce perché qui c'è vento e insomma è pericoloso stare nei boschi con le torce. Faremo un accerchiamento a quelle che sono le recinzioni che hanno messo loro, che ricordiamo sempre non sono ancora le recinzioni del cantiere vero e proprio, che non è ancora cominciato, ma sono le recinzioni in cui si sono rinchiusi le forze dell'ordine. E quindi sarà un'iniziativa di massa, una parte di noi andrà prima perché si voleva fare un falò, insomma preparare dalla parte della baita, cioè di quella casetta che avevamo costruito durante questo inverno, per cui ci sono state anche le denunce perché costruzione abusiva, poi perché l'avevano sequestrata e noi abbiamo rotto i sigilli e ci hanno denunciato, insomma che è già tutta una storia. E quella casetta lì sorge proprio nel cuore di dove dovrebbero poi esserci i veri cantieri, che noi possiamo raggiungere appunto o andando da un altro paese oppure facendo questo sentiero che dalla centrale, che è il primo sbarramento della Maddalena che troviamo, ci porta lì. E quindi l'iniziativa non è niente di particolare, è questo accerchiamento qui. D'altra parte questo campeggio, che è anche un presidio permanente, nasce con l'assedio cominciato il 3 luglio e continua a essere. Ogni sera qua noi di solito dopo cena usciamo dal campeggio e andiamo a fare la libera battitura. Senti, quindi... ieri sera posso raccontare un episodio molto particolare, che ieri sera c'era prima proprio davanti alle postazioni della Sbirraglia, c'era prima un'archeologa di Piemonte proprio che raccontava che cosa è successo alle tombe neolitiche sulle quali è passata la ruspa e il mezzo dell'idrante durante il 3 luglio, e che quindi è stata devastata, che era poi il richiamo diciamo turistico di Piemonte, erano questi resti neolitici sepolcrali che quindi loro hanno devastato. E c'era questa archeologa insomma che raccontava un po' che cosa c'era di importante in questo museo, che per ora oggi invece a tutti gli effetti è il quartiere generale delle forze dell'ordine. E dopo questa discussione, cioè dopo questo aggiornamento sulle condizioni delle tombe, avevamo invitato un gruppo liscio e stavamo ballando allegramente davanti agli sbirri, che ieri per tutto il pomeriggio attraverso gli operai infami dell'Italcoge, della ditta che ha preso in appalto questi lavori di recinzione, hanno fortificato il loro cancello e ne hanno messo un altro dopo un 5 metri da un cancello, adesso ce n'è un altro, facendo proprio una base di cemento armato in cui hanno inserito questi cancelli, perché hanno visto che gli altri comunque ogni sera venivano danneggiati da noi, e questi insomma, oddio, si possono danneggiare anche questi, però in maniera li hanno messi un po' più fortificati, e hanno lavorato tutto il pomeriggio per fare questa cosa. Ieri sera quindi noi eravamo tranquilli perché avendo due cancelli dalla parte insomma che limitavano il contatto con loro, stavamo allegramente ballando, quando invece hanno deciso che era insostenibile questa cosa e ci hanno lavato con gli idranti per almeno un paio d'ore. Cioè rovinando anche suppongo l'attrezzatura del gruppo, che fino a un certo punto ha continuato a suonare e anche intonato Bella Ciao, in maniera che fosse evidente la solidarietà anche di chi viene qui ad allegrarci, insomma non è che sta dall'altra parte, sta dalla nostra parte. E poi però quando gli idranti appunto hanno raggiunto addirittura la strumentazione, insomma se ne sono andati un po' di fretta e anche insomma abbastanza mortificati per quello che è successo. Per cui diciamo che l'assedio dà fastidio, in qualsiasi modo lo facciamo, sia che togliamo il filo spinato, che ribadisco la popolazione che va al di Susa lo ritiene insopportabile il filo spinato, è intollerabile, per cui l'abbiamo rimosso ogni volta che l'hanno messo, e sia cercando di danneggiare le reti di recinzione. Evidentemente però anche la musica dà fastidio, e quindi adesso hanno, si sono costruiti questo altro cancello, e quindi tra un cancello e l'altro posizionano l'idrante della polizia, e poi insomma con i potenti mezzi dell'idrante ci lavano. Qui la sera fa freddo e quindi non è diciamo tanto simpatico, perché se fosse un clima differente insomma andremmo tutti in calzoncini e maglietta e non è che ci faremmo spaventare dall'odore idrante, però dopo fa freddo, la gente rimane qui nelle tende e insomma ci creano delle difficoltà che però non impediranno questa sera di ripetere esattamente le stesse cose che facciamo tutte le sere, cioè di andare lì a fare queste battiture su un guardrail che è lì vicino e anche sulle reti che hanno dei tubi metallici che insomma rimbombano, e quindi noi facciamo lo stesso le battiture e siamo comunque sempre lì presenti a gruppi, ognuno a lamentare il proprio dissenso in varie forme, e lo faremo poi stasera in maniera particolare, perché si farà questo accerchiamento generale, mentre di solito la battitura avviene solo dalla parte della centrale, che è la parte vicina al campeggio, e invece questa sera andremo anche dall'altra parte in maniera che ci sia un accerchiamento generale. Suppongo che loro siano molto agitati, perché ieri sera quando poi li abbiamo visti muoversi, soprattutto si arrampicano i fotografi che riprendono, vi posso assicurare, qualsiasi cosa, sapranno anche le rughe che abbiamo nei nostri volti, e si sono arrampicati un po' per andare in alto, qualcuno addirittura è anche rovinato, e sappiamo che comunque nella montagna loro, anche se hanno anni e anni di palestra, di addestramento, poi sono in difficoltà, A perché non conoscono bene i posti, anche se se li sono girati sicuramente in questi giorni, e B perché insomma non si impara all'improvviso da girarsi nei monti della Val Susa, e quindi noi consigliamo anche in questa loro difficoltà. Certo che se loro, appena noi insomma ci proponiamo, ci lavano con gli idranti o peggio, ieri sera hanno usato anche delle bombolette di spray urticante per chi si avvicinava proprio al cancello, le usavano proprio a mano come una bomboletta di deodorante, a chi alcuni di noi, alcuni ragazzi andavano con dei cartelloni grossi per fermare l'idrante, potersi fermare l'idrante, cioè evitare di fare una barriera all'idrante e cercare di avvicinarsi alla rete, che diventa una provocazione evidentemente per loro non sostenibile, e loro appunto venivano e ci spruzzavano con questi spray urticanti. E naturalmente stasera è probabile anche che lo facciano con i lacrimogeni, e quindi, ma ormai qua è un po', purtroppo è diventata una consuetudine, non è che ci sia un allarme particolare per questa cosa, perché sappiamo che resistere in questo periodo, che per noi è fondamentale continuare a farlo, significa dover affrontare queste difficoltà che piano piano stanno entrando anche nella mentalità di chi nella propria vita non aveva mai visto un confronto con le forze dell'ordine di questo tipo. Però quando loro, per esempio ieri sera, mentre la gente ballava tranquillamente in liscio, posso assicurarsi tra l'altro che qui, soprattutto al campeggio, ci sono giovani, erano presi benissimo perché loro facevano un liscio un po' moderno, diciamo, e ballavano allegramente con le signore più grandi, con i signori che sanno ballare in liscio, così, e c'era proprio un clima così. Però quando dopo ci hanno lavato con gli idranti, non è che le reazioni sono state quelle di andare via o di indietreggiare, ma la rabbia aumenta, perché se non si può neanche ballare, anche chi ha dei, diciamo, delle difficoltà, a quelli cosiddetti non violenti, pacifisti, davanti a situazioni di questo tipo poi si rendono conto che... Pronto? Sì, no, io ti ascolto benissimo. Ecco. Sì, no. Si rendono conto che insomma resistere in questo caso vuol dire appunto dover affrontare queste situazioni e quindi cercare di farle diventare, non dico ordinarie, perché speriamo proprio di non doverci mai abituare a questa ordinarietà, però metterle nel conto di quelle che sono le nostre giornate di resistenza. Certo, no, la cosa che pensavo mentre tu parlavi è che comunque la Val di Susa non ha più tutto quel battage nei giornali, sembra che sia tutto finito, che è tutto stato sgomberato e sono cominciati i lavori, mentre da quello che dici... No, lo so che non è così, apposta noi come radio ci teniamo ad avere un contatto, non dico quotidiano, ma frequente con la valle, perché appunto sembra che non esista più niente dopo quella grande cosa in cui dicevano che c'era la calata degli UNI. La politica, diciamo, che loro hanno usato da una parte la repressione, dall'altra tutta la montatura mediatica, per cui per esempio nei giornali locali ieri c'era addirittura una lettera di Cota, il presidente della regione, che invitava, preoccupato del turismo in Val di Susa, invitava la gente a venire in Val di Susa, che è un posto tranquillo, non militarizzato. Insomma, fa un po' ridere, no? Perché poi chiunque è venuto qui si è potuto rendere conto della situazione. Certo che il resto della valle è tutta tranquilla, non ci sono, però Chiomonte è così. E comunque se loro si devono muovere per fare i cambi, così, sono comunque presenti anche sulle statali, ci sono posti di blocco, non è che ci sia proprio una situazione di tranquillità. E ci può essere una situazione di tranquillità data la situazione, perché ora loro pensiamo che poi i cantieri li cominceranno a settembre, perché se no non ci spieghiamo come mai fortificano da questa parte, che è una parte che proprio non gli riguarda, per cui probabilmente pensano di passare il mese di agosto a mantenere la postazione. E poi anche in base, perché comunque l'Europa ancora deve dire qualcosa, ricordiamoci anche di questi aspetti che non sono fondamentali, perché sappiamo che le leggi le fanno e le disfano, però devono ancora avere l'ok dall'Europa, i soldi non sono ancora arrivati, quindi devono ancora valutare politicamente ed economicamente come si muovono, e pensiamo che tendano a mantenere il fortino tutto agosto in questa forma qua, e poi magari liberare questo pezzo di strada, che è la strada della Vanà, che è quella che crea più problemi ai locali, perché come abbiamo già detto ci sono le vigne e qui c'è una situazione veramente inverosimile. Ieri un trattore con un signore e sua mamma anziana, con le latte del verderame e dell'acqua per andare alle vigne, non potevano passare perché appunto, come ti ho detto, ieri gli operai dell'Italcoge stavano fortificando i cancelli e questi non sono potuti andare. Quindi loro, quando poi cominceranno i cantieri, questa via la dovranno allentare, perché sennò significa veramente avere messo a repentaglio tutta l'economia basata sul vino di questa zona, che è stata una zona anche finanziata dalla comunità europea per l'eccellenza del vino particolare e anche per questo museo che adesso è stato devastato. Il comune di Chiomonte ha preso 800.000 euro per questo sito archeologico, e adesso abbiamo controllato anche nei dépliant, no, della regione, sui musei, sui siti archeologici, infatti non compare più, ma proprio perché non c'è più. E queste, insomma, tutte queste cose vanno valutate insieme. Pensiamo che quindi loro per l'estate tendino a mantenere la situazione che c'è, cioè a mantenere il fortino che si sono fatti. A settembre magari si apriranno le danze diversamente. Quindi noi quello che dobbiamo fare è continuare a mantenergli la pressione, perché loro devono capire che non è finito niente, non è cominciato niente, e soprattutto non è finita la nostra determinazione a fare in modo che quest'opera non venga fatta. Naturalmente anche con l'appoggio di quelle che possono essere le situazioni fuori dalla Val di Susa, che comincino a capire l'importanza di questa lotta per il significato generale che ha, e ci diano poi sostegno, insomma, attivo, come peraltro è già successo dopo i fatti dello sgombero, che insomma confidiamo in queste, anche se naturalmente noi abbiamo la necessità di comunque muoverci in prima persona come popolazione della valle, perché l'opposizione l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta crescere noi e deve rimanere comunque un patrimonio nostro, alla quale naturalmente è benvenuta qualsiasi altra situazione di sostegno di qualsiasi tipo, che si svolga qui o che si svolga nelle città quando succedono fatti qui. Senti, un'ultima domanda, perché insomma penso che tu abbia anche altre cose da fare oltre che a parlare al telefono con me, quasi poi infatti, no, mi riferivo a questo, visto che è quasi ora di pranzo. In questi giorni ci sono vari convegni a Genova per il decennale del 2001, e se non vado errata, Agnoletto avrebbe detto insomma che quello che sta accadendo a Genova, cioè il ricordare quello che è accaduto nel 2001 e fare altri seminari, non prevede una presa di posizione, diciamo, ufficiale del comitato promotore nei confronti della Val di Susa, mentre c'era stata la proposta di venire in valle e di portare insomma testimonianza di solidarietà. La differenza fondamentale fra questo movimento e qualsiasi altro movimento che io abbia mai conosciuto è che questo è un movimento popolare, non ideologico e non di ceto politico. per cui per noi se il ceto politico sta a casa ci fa solo un favore, perché noi siamo cresciuti proprio perché non siamo un ceto politico e non ci muoviamo per mettere le nostre bandierine. Di bandierina ne abbiamo una molto bella, bianca, col freno crociato, nella quale ci riconosciamo tutti senza differenze. Noi abbiamo un obiettivo, quello di fermare quest'opera, poi andremo a sviluppare dopo le altre cose, questo è il nostro obiettivo, per cui se Agnoletto non vuole inserirsi ufficialmente non ce ne può fregare di meno, anche se ricordiamo che è stato solidale negli anni passati col nostro movimento, soprattutto nei fatti di Venaus. Però invece domani la valle scenderà a Genova, perché c'è un pullman che va comunque a Genova. Noi ovviamente siamo molto impegnati nella nostra terra, andrà una delegazione forte, andrà a Genova e domenica una parte di Genova viene qua. Posso dire che verrà la mamma di Carlo Giuliani e per quello che ci riguarda è sufficiente, ecco, come rappresentanza di quello che è stato Genova e tutto quello che è successo a Genova 10 anni fa. Certo. Per cui appunto se non vengono i ceti politici per quello che ci riguarda va bene. Sì, no, ma io ti facevo questa domanda non tanto per fare una polemica inutile, ma proprio perché riflettevo sul fatto che ricordare Genova è una cosa molto importante, soprattutto come lo stanno facendo loro è una cosa che lascia un po' perplessi, parlare sempre con questo piagnisteo sul vittimismo e tutto quanto, quando invece poi c'è una lotta che ti sta dimostrando che le cose si possono fare e che partono dal basso. A me la cosa che impressiona è il mancato rapporto con la contemporaneità, mi sembra quasi che li faccia vittime. Perché probabilmente c'è stata questa, diciamo, c'era stata nei giorni scorsi, fino a 10 giorni fa, questa ipotesi di spostare tutto qui, no? Sì. Che poi alla fine non era né tanto ben voluta da noi e anche chi aveva proposto questa cosa ci ha ripensato, perché noi siamo in un momento in cui anche a ospitare un altro corteo nazionale in questo momento non ce n'è bisogno, noi dobbiamo sempre salvaguardarci le energie e certo, convocare queste cose quando è il caso, no? Perché non è da poco gestirsi un corteo in un territorio montano come questo qua, per tante ragioni, anche per la incolumità delle persone che vengono, dato come è andato anche il 3 luglio e come potrebbero andare qualsiasi altra iniziativa così, e dato, diciamo, il livello di violenza che le forze dell'ordine intendono usare su di noi, insomma. E quindi non ci sembrava il caso, siamo stati molto tiepidi noi su questa accoglienza della roba qui, che non vuol dire non essere, come dire, solidari con non essere anche dentro a quello che è successo a Genova, perché io ricordo che 10 anni fa dalla Val di Susa, già organizzata come Movimento Ottava, arrivarono 3 pullman, quindi la popolazione qui è cosciente di cosa è successo a Genova e di che cosa è stato Genova e anche il dopo Genova, ma noi c'entriamo poco con quella situazione, e ribadisco, proprio perché questo non è un movimento popolare su un obiettivo specifico, che poi crescendo ovviamente si è arricchito anche di tanti altri contenuti, perché abbiamo sviluppato il no non solo da un punto di vista dell'ambiente, del territorio, ma anche da un punto di vista economico e del modello di sviluppo che si vuole dare. Però rimane appunto un movimento che non ha bisogno di rappresentanze di ceto politico, anzi penso io personalmente, questo lo dico a nome mio, che il ceto politico è la morte di qualsiasi movimento e di qualsiasi forma di lotta. La vera lotta che sta dandosi frutti e che ha dei significati importanti è questa lotta così, che si fa giorno dopo giorno tra un gas lacrimogeno e un idrante sul corpo, che sedimenta nelle persone le motivazioni e fa in modo che la gente invece di indietreggiare continui ad avanzare. Noi dobbiamo resistere e praticare questa pratica qui della resistenza e della presenza, perché la migliore arma nostra contro di loro è la nostra presenza. Quindi noi stiamo qui, se vengono le persone a darci solidarietà di qualsiasi tipo, vengano in valle, soprattutto perché chi viene forse capisce anche meglio che cos'è la Val di Susa e cosa sta sviluppando in questi 20 e che cosa ha sviluppato in questi 20 anni, e poi invece diciamo che i cappellini che piace mettere a tanti, non è che solo ad Agnoletto, insomma qui sono fuori luogo. Va benissimo. Bene, allora io ti saluto, ti faccio tanta solidarietà. È un in bocca al lupo per stasera. Io non ti rispondo crepi il lupo, ma ti rispondo viva il lupo, perché a noi gli animali ci piacciono, no, e no, ci proteggono. Bellissimo. E non abbiamo niente contro i lupi, e quindi poi ci risentiamo, vi racconterò com'è andata domani. Benissimo. Questa sera. Ok, grazie mille. Grazie a voi, ciao, ciao. Sempre notavo. Sempre notavo, ciao.